fatto cavo TV una, le connessioni, polo caldo e polo freddo, tutto il resto è fatto, il polo caldo e polo freddo è fatto solo di rame nudo, rame nudo legato ai paletti, a credo a 70 80 cm da terra, dai. Ottimo. Lo Scubu gli ha fatto col carburante no, di televisione 75 ohm, sì, serve per prendere, invece di mettergli il balun, no? Invece di mettergli il toroide, quello che hai preso tu e ti è arrivato, glielo fai con quello, capito? Sì, no. Ho capito questo lo zio da dove si sente. Adesso me ne sono accorto, c'è quel condensatore verde, c'era presente sopra quelli, che, quelli nuovi che sono stati piazzati, quel condensatore verde orizzontale, che c'ha appena di liquido, mi sono accorto, nel modo positivo. Ecco cos'è il problema. No, non ti ho sentito, Antonio, perché il gioco di mio figlio ha fatto un rumoraccio. Mi stavo dicendo quel condensatore verde? Sì, quel condensatore verde, adesso me ne sono accorto. Stavo uscendo liquido, stavo uscendo. Quindi bisogna che glielo cambio, prima che esploda. Ecco cos'era questo lonzio alternata. Nella piazza dove c'è l'alimentazione, hai capito? Della 220. Va bene, cambialo. Va bene, sono capizzato. Mi stavo guardando, ho detto, cazzo che strano, ho detto il polo caldo dove c'è il condensatore, si vede questo liquido madoncino, si vede, lucido. Però è normale. Quindi glielo cambio, qualcosa di lavoro era. Vabbè, già si fa in fretta, tanto ci sono quattro viti da smollare e basta. Non devo fare altro. Glielo metto nuovo, è perfetto. E poi attaccato al diodo della 220. Ho capito. Vabbè. Adesso l'ho spento l'ignale, l'ho lasciato senza corrente, non sa che mi faccia lo stesso effetto, cazzo, che quando lo accendo forse a pum e mi diventa la camera di colore bianco, cazzo. Perché ti dà la scossa, ti aumenta il battito cardiaco. No, la scossa già sono abituato con il condensatore, non è quello il problema. Addirittura con il condensatore alla parte metallica li puoi fare una bella strisciata negli sportelli, basta che lo carichi. Non sai come ti fa la vernice, cazzo. Una bella strisciata, cazzo. Non so quanto tempo ci voglia per scaricarsi, però un po' di tempo ho bisogno. E per quello già lo scarico qualcosa, non è il problema, prendo una forbice e lo scarico, la massa è positiva, già si scaricano da soli. Va bene, là, io vi lascio che domani mattina me devo fare roba, già lo sai. Ci sentiamo domani sera al limite, quando rientro dopo le 8:30. Va bene Antonio, dai, ci ascoltiamo. Ciao, buonanotte, saluta Simona, c'è stabilita, sì? Sì, è caduta stasera, buono, la gente del socco era scivolata con le ginocchia, ma male non si è fatta male. Gli ho messo la crema, però non succedeva niente. Allora, ciao Tino, ciao Joker, ci sentiamo domani sera. Ehi, Antone, dai, ci sentiamo, buonanotte e buona giornata per domani. Ciao, avanti. Va bene, dai, ciao Antone, saluto Simone e Giovanna, questo è il componente. Ehi, la vedo domani mattina intanto, così mi piglio con il 4000 e l'alimentatore che ho dovuto agganciare i fili di questo qua nello spinotto del Kenwood. Così con il 4000 esco meglio, che c'ha meno watt. Così facciamo la prova. A domani, ciao. Ciao, domani, ciao. È così. E 20 non ce ne sono questa settimana, capito? No, Antonio. Ma Antonio, scusati. No, avevamo 13 a Santo Doro del Colos, però saltata. Niente. Niente, stiamo facendo questo lavoro, adesso iniziamo a fare i locali. Dai, insonorizzazioni e tutte le manutenzioni dell'estate, tutte le manutenzioni dei problemi cosa tira l'estate. E vabbè, no, adesso sono molto più libero. Cioè non è che più libero, lavori tutti i giorni, però almeno la notte sia a casa, almeno la sera alle 6 sia a casa, mi segui. Invece prima, cioè in stagione esci e non sai quando rientri. Sinceramente non ho più voglia. Voglia, che lo dici? Tu pensa che adesso stiamo finendo un lavoro lì da Aitrindu, che abbiamo fatto sia la fogna sia la cifognari delle case, meno male che abbiamo trovato una via che tutti hanno rifiutato, perché praticamente ci passava la fogna, l'acqua, la fibra, il telefono e l'urbanizzazione, e quindi fare degli scavi così non c'è la produzione, nel senso che non è che stai scavando in campagna, ne fai chilometri e chilometri, lì devi stare con gli occhi aperti, e ci serve anche un operaio a terra per poter cercarti il tubo o qualsiasi altra cosa, capito? Vabbè, siamo quasi al termine, adesso abbiamo messo anche il tubo della premente, che sarebbe un tubo che dal depuratore va a scaricare il troppo pieno in fogna. Ci tocca solo mettere in pressione l'acqua e fare gli allacci delle casse. Venerdì ne abbiamo fatto quasi la metà, quindi credo che lunedì li finiamo, almeno gli allacci, e poi va messa in pressione e consegnato al lavoro. Dopodiché vediamo se andare a Sassari a lavorare o alla girare. Non sarebbe male a Sassari, no? No, non mi dispiacerebbe, è che tieni presente che se tu sei lontano c'è pagata anche l'ora di viaggio, quindi ogni giorno fai 2 ore di straordinario, quindi a fin dei conti al mese anziché fare 160 ore ne fai 200. Sì. Beh, per forza. Anche quello da valutare, E voi siete fortunati che trovate quello che ti paga anche il viaggio. Sono certe vite che io manco viaggio di pagani. Pare dai, per carità, fanno schifo. Va bene, no, noi adesso è molto più calma, ora solo il fatto che la sera sia a casa alle 6, anche se la mattina esce alle 5, però la sera alle 6 sia a casa, è tutto un altro pianeta, perché noi dormiamo 3 ore alla settimana, 4 ore alla settimana, non dormiamo, perché cioè arrivi a un punto di stress fuori dal normale, ma proprio fuori dal normale. Ci sono stati giorni che ho dormito 2 ore in 48 ore, non so se rendo l'idea, perché poi devi anche guidare, devi far di tutto, quindi è un po', dai, già ci sta un po' di lavoro vicino, cioè che esci, che orari civili, dico io. Sì, diciamo la verità, caspita, lavorare a Sassari a me mi va bene, perché al limite io anche quando lavoro a Sassari, se devo scendere a produttore, sì, alle 7 sono a produttore, poi dalle 7 alle 8 faccio la preparazione, furgone, gasolio e quant'altro, quindi quello lì me la conto lo stesso come lavoro, capito? Se invece devo andare direttamente a Sassari, allora no, vado direttamente alle 8:15 e ti faccio le 8 ore, a meno che c'è qualche cosa da trattenerti, ma diciamo che non è il caso adesso. capì, più riposo, nel senso che quando rientri a casa, vabbè, adesso le ore, la giornata sta sempre diminuendo, arrivi sempre al buio, non è che... Sì, arriva al buio, però appunto perché buio, perché poi finisci alle 6, alle 5, arrivi a casa alle 6, ma un po' è tempo di rilassarti, dai. Non che devi uscire la mattina alle 5 a prendere i mezzi, farti anche 100 km andare, 100 km a tornare, portare i mezzi in capannone, poi andate a casa, e il giorno dopo uguale, e così l'uomo poi, vabbè, le spalle già sono larghe, però un po' di riposo già ci vuole, un po' di riposo già ci vuole. Beh, io adesso faccio un altro passaggio a proposito del riposo, e poi mi metto a fare un pochino di, diciamo, di orizzontale, un po' di orizzontale, perché già sono un po' stanco, come io stesso. Sembra così, ma il caldo mi fa impazzire, no? Mi fa proprio, mi sta distruggendo, non vedo l'ora che piova, deve piovere. No, vabbè, piovere non mi interessa, però vabbè, rinfrescare già non è male, anche perché insomma il tempo ancora è troppo caldo per come, per il periodo che siamo. Va bene, Gabriele, anche io adesso mi rimango un pochino qua con mio figlio che sta ancora giocando, ti faccio un po' di compagnia e poi anch'io vado a nanna. Domani niente di che, tutto riposo, quindi non c'è problema. Andare, dai, ci sentiamo, Gabi, ciao, buonanotte, buon riposo, buono carica batterie, buon tutto, salutami in famiglia, ciao, ciao. E a te, ciao, buonanotte anche a te, a Corea Familiare. Se domani mattina, come ti svegli, vuoi fare chiamata, io domani intanto sono autogiorno a casa, le radio sono accese e sono puntato qua, però in FM, però sono puntato in FM. Se poi ci vogliono ascoltare in AM ci ascoltiamo, però la radio ce l'ho puntata in FM, mi segui su 12 in FM, fammi chiamata se vuoi. La radio accesa dalle 7 fino alla domani notte. Ok, ciao a tutti, buonanotte di nuovo, buonanotte a chi all'ascolto, dai. Va bene, allora, vediamo, non so se domani mattina mi capita che devo uscire e fare qualche cosa, non so, dopo, quando, non mi organizzo la giornata io, quando mi alzo vedo un po' cos'è, se ci manca qualcosa a casa, prendo, parto e faccio compare. Allora, va bene, dai, ci sentiamo, ciao Gabi, ciao, buonanotte. Ciao. Ciao.